24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui, cari ascoltatori, buongiorno, sono le 7:22 minuti, riparte una settimana di 24 mattino. Saluto Roberto Scaltritti, oggi in regia, il nostro alpino Peter Bescapè. Che hai fatto? L'hai rottamato? Non si sa, ogni tanto appare, scompare. Vabbè, ci piace così. Allora, ci seguite anche su Twitter se volete, @AlinoMilan, sono io, @24mattino, la nostra trasmissione, così anche su Facebook ci trovate come 24 mattino. Oggi avremo ospite l'onorevole Giorgia Meloni alle 8:20, parleremo un po' di riforma del mercato del lavoro, insomma una settimana politica importante. Poi, a proposito di politica, dalle 8:30 parleremo di partiti in crisi tra inchieste, scandali o presunti, e voi italiani che ne pensate a un anno dal voto? Ne parliamo con il direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli e con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris dalle 8:30. Ora andiamo a vedere cosa ci propongono i giornali in edicola. E allora, in questo lunedì 19 marzo, i titoli: il Sole 24 Ore, il fisco si adegua alla crisi, questo è il titolo di apertura, mentre la riforma del mercato del lavoro è un po' l'apertura di tutti gli altri quotidiani. Per il Corriere della Sera, ultimatum di Fornero sul lavoro; per Repubblica, lavoro, la mossa dei sindacati; per La Stampa, lavoro, l'ultima mediazione; per il Secolo XIX, Fornero, dura riforma. Fornero dura, riforma anche senza accordo. Così il Messaggero, riforma anche senza intesa, mentre l'Unità, non tirate la corda, e c'è la foto di ministro Fornero e del premier Mario Monti. Per il Giornale invece la vicenda di due turisti rapiti in India: fermate i turisti, fai da te. Questo è il titolo anche per il quotidiano nazionale La Vita in Gioco, e c'è la foto di uno dei due turisti italiani. Intanto però voglio partire da una notizia del Corriere della Sera che riguarda la benzina, la tanto cara, non nel senso di amata, ma cara proprio, benzina da tutti noi italiani. Il super sconto di Bolzano contro il caro benzina. Eccoli qua, vorremmo tutti essere a Bolzano, perché lì sappiate che la benzina costa 27 centesimi in meno. Ebbene sì, gli automobilisti dell'Alto Adige, scrive Claudio Del Frate a pagina 24 del Corriere, brindano con un bel pieno di benzina. Per combattere l'impennata dei prezzi, la provincia autonoma di Bolzano ha introdotto per i residenti uno sconto sulla verde fino a 27 centesimi di litro. Questo per scoraggiare in tale maniera il pendolarismo di chi va a fare il pieno in Austria, dove i carburanti sono meno cari. Certo, anche in Lombardia, in Friuli Venezia Giulia, c'è lo stesso fenomeno, no? Regioni di confine. Ma per esempio in Lombardia, Como e Varese, ci sono degli sconti che si riducono alla metà di quelli di Bolzano e rischiano di essere vanificati se il governo non rinnoverà alcuni finanziamenti ad hoc. Invece la giunta regionale di Trieste è nel mirino dell'Unione Europea, che considera quegli sconti un indebito aiuto di Stato. E invece a Bolzano, isola felice. Bolzano, i residenti possono stare tranquilli, perché visto che lo Stato non incassa una bella fetta di IVA accise sui carburanti se uno va a fare il pieno in Austria, ecco che allora lo Stato è venuto in soccorso. E allora 27 centesimi al litro di sconto per chi abita entro i 10 km dal confine con l'Austria, 20 centesimi per le distanze fino a 20 km. In questo modo niente fuga all'estero e le tasse continuano ad essere incassate dallo Stato italiano, dalla provincia autonoma di Bolzano nello specifico. Eccolo qui, il super sconto di Bolzano contro il caro benzina. Dite la verità, vorreste tutti chiedere la residenza, eh? Andate là, però entro i 20 km dal confine, se volete degli sconti cospicui. E la seconda notizia, prima della pubblicità, ve la voglio leggere dalla prima pagina del Secolo XIX. Che ha fatto Mario Monti? Ha ridotto tutte le agevolazioni per i voli di Stato. Il prof cancella i passaggi gratis per familiari e giornalisti. Pagina 5 del Secolo. Il tempo delle vacche grasse è finito, stop ai voli blu per parenti, amici, giornalisti. Questo ha deciso il governo Monti, attuando una serie di restrizioni per i familiari dei titolari di voli di Stato e per i loro accompagnatori. E così giornalisti impegnati a seguito delle missioni internazionali del governo italiano dal 15 marzo, cioè da qualche giorno fa, cambia tutto. Intanto le limitazioni introdotte per i parenti, anche stretti, di ministri e sottosegretari che useranno i voli di Stato, potranno salire i parenti solo se sussistono specifiche esigenze di tutela o di altra natura debitamente motivate, una formula un po' vaga ma che comunque ha l'obiettivo di prevenire la possibilità di un uso trasparente, poco trasparente, di voli pagati con soldi pubblici. Il secolo ricorda insomma le vicende sia dei voli di Stato berlusconiani, sia la vicenda di Clemente Mastella che nel 2007 portò suo figlio al Gran Premio di Monza, andò con l'aereo in cui viaggiava il collega Rutelli e disse: mio figlio non lo vedo mai, che male c'è se lo porto al Gran Premio? Poi se siamo in 10 o in 15 o in 20, l'aereo tanto deve decollare, deve arrivare, e dunque che problema c'è? Ora invece una stretta a tutto questo: la cifra che gli organi di stampa dovranno pagare per imbarcare un loro giornalista sui voli di Stato varia dai 500 ai 2500 euro. Per la prossima missione in Asia si parte. Giornalisti, volete andare al seguito? La vostra testata deve versare 2500 euro per seguire il premier Mario Monti. E viene da dire, in questo caso, forza Monti! Ci fermiamo 6 minuti. Allora, le 7:36 minuti, la riforma del mercato del lavoro è il tema che trovate maggiormente sviluppato oggi sui giornali, perché è la settimana forse decisiva. Domani è atteso un altro incontro importante a Palazzo Chigi tra le parti sociali e il governo. E sui giornali è tutto un insieme di strategie, no? Ieri il ministro Elsa Fornero, da Fabio Fazio, ha detto di fatto che senza l'accordo la riforma andrà in Parlamento, ma anche e soprattutto che non si può discutere all'infinito e che bisogna arrivare a un accordo anche senza le firme di tutti, a un accordo anche appunto senza discutere in eterno. E qual è la posizione? Beh, tutti guardano ovviamente il giornale, la posizione dei sindacati. Oggi vi voglio sottolineare e vi voglio segnalare l'articolo di Roberto Mania in prima pagina di Repubblica, una sorta di retroscena su quello che vogliono fare i sindacati. La strategia è questa: uscire dall'angolo e mettere il governo davanti a un bivio, o l'accordo con le parti sociali sul mercato del lavoro oppure lo scontro. Di fronte a quella che si prospetta come una vera e propria debacle sindacale, CGIL, CISL e UIL hanno deciso di provare l'ultima mossa, definita da Mania la mossa del cavallo, secondo una consumata strategia negoziale, vale a dire presentarsi all'appuntamento di domani a Palazzo Chigi con un documento unitario sull'articolo 18. Per questo, definita una mossa per sparigliare, per fare emergere la reale volontà del governo Monti, una mossa insomma per sopravvivere a favore di questa operazione che ha lavorato il Partito Democratico. Per questo, scrive Repubblica, oggi ci sarà un vertice tra i tre leader confederali, vale a dire Camusso, Bonanni e Angeletti, un vertice che non era in calendario, è stato convocato ieri, grande regista Raffaele Bonanni, mentre Susanna Camusso è rimasta molto sull'Aventino dopo aver portato la CGIL per la prima volta a considerare l'ipotesi di un intervento sull'articolo 18. Sta di fatto che in questo vertice pare, secondo Repubblica, che i sindacati vogliono approntare una strategia unitaria per arrivare domani all'incontro e mettere appunto un po' con le spalle al muro il governo Monti per vedere: adesso diteci cosa volete fare. Anche perché, secondo questo retroscena di Repubblica, i sindacati sono abbastanza convinti, soprattutto la CGIL, che il governo non voglia l'accordo perché consideri molto più spendibile in termini di credibilità internazionale la sconfitta dei sindacati. Mentre si evince da questo articolo anche una sorta di irritazione da parte della stessa CGIL nei confronti del Partito Democratico, quando al vertice tra Monti e ABC, Alfano, Bersani e Casini, i partiti, e Bersani in primo piano, hanno dato quasi per scontata l'ipotesi di un accordo sulla riforma del mercato del lavoro. L'irritazione perché la CGIL dice l'accordo si fa al tavolo negoziale, non certo perché i partiti si mettono di mezzo. Questa irritazione la troviamo anche nel retroscena di Fabio Martini a pagina 4 della Stampa. Il segretario del PD, il timore di Bersani è questo, che la CGIL prosegua la linea dell'Aventino, come viene definito, e dunque di non accettare questo accordo, ma certo ciò che ha infastidito i sindacati è quelle parole sul mercato del lavoro, la cosa migliore è trovare un accordo, pronunciate davanti a Mario Monti dal segretario del Partito Democratico Bersani. Certo, i tre sindacati confederali non hanno gradito questa interferenza dei partiti e si sono irritati per questo. Sta di fatto che, se volete, sono tutte schermaglie, sono tutte, no, è la vecchia concertazione, è il modo di trattare, per qualcuno va bene, per qualcun altro è passato, è finito, bisogna un attimo rompere questi schemi, bisogna sostenere la necessità di un qualcosa che sia un po' una svolta anche nelle estenuanti e lunghe trattative del passato. Intanto, se volete, Sergio Bonanni, segretario della CISL, intervistato dal Corriere della Sera, dice: lotterò per l'intesa, seguiamo la via dei partiti, non spaccherò certo il sindacato in caso di mancato accordo, ma ognuno dovrà prendersi le sue responsabilità, dichiara a Roberto Bagnoli, e l'intervista la trovate a pagina 9. Sulla questione del ministro Fornero, definito un po' arrogante dalla Camusso, dice Bonanni: per molti è un ministro rigido e invece ha dimostrato grande flessibilità. In due mesi di negoziato ha accettato tante nostre proposte, così deve fare anche il sindacato. Riguarda i margini di manovra dopo lo strappo di Milano, dice: sono pochi ma buoni. Oggi ricorrono i 10 anni dalla morte di Marco Biagi, rafforzerò la mia determinazione nell'intesa ispirandomi al suo sacrificio. Non sono parole retoriche, ma due lustri sembrano trascorsi in vano rispetto a quello che è successo nel mondo. Insomma, un Bonanni che si mantiene ottimista, mentre Angeletti, che è più segretario della UIL, dato sul no a oltranza, fa oggi un'intervista all'Unità, intervistato da Marco Ventimiglia. Dice Angeletti: vogliamo l'intesa, ma sull'articolo 18 le proposte sono irricevibili. Intanto Angeletti dice: basta pensare che si discute dell'articolo 18, è una mistificazione l'idea che noi ci sediamo al tavolo della riforma del mercato del lavoro con il governo e ci accapigliamo sull'articolo 18, mentre sono tanti temi sul tavolo. Ma certo, sull'articolo 18, dice Angeletti, di progressi ce ne sono stati anche qui, ma la distanza tra le proposte del governo e la posizione dei sindacati resta significativa. Su questo tema si esercita anche Giuliano Ferrara nel suo editoriale del lunedì sul Foglio. La linea molto netta di Ferrara è questa: la mia impressione è che se sull'articolo 18 vince la Fornero, col suo bagaglio di competenze, i suoi amici professori amici di un welfare liberalizzato e aperto, i suoi legami con l'establishment della Torino borghese, si fa qualche progresso. Se vincono la Camusso e la Marcegaglia, col condizionamento decisivo di due apparati associativi conservatori, con la rispettabile ma opacizzata tradizione delle vecchie relazioni sindacali e della vecchia concertazione politica, non ci si muove di un passo. E dunque la linea molto tranchant di Ferrara è questa: se sull'articolo 18 vince la Fornero cambia qualcosa, se no, no. Staremo a vedere in settimana cosa succederà. Noi, come detto, parleremo di partiti in crisi, soprattutto perché se si leggono i giornali è un profluvio di inchieste più o meno gravi, si legge di corruzione, presunte corruzioni, soldi che spariscono. L'ultima vicenda che anche oggi è ripresa dai giornali è quella del sindaco di Bari, Emiliano. Per il Corriere della Sera il PD scarica Emiliano. Sentite la dichiarazione ieri del segretario regionale del Partito Democratico, cioè il suo partito: basta con l'ipocrisia più pelosa delle cozze. Emiliano era diventato la maschera di gruppi di interesse, no? Queste cozze pelose saranno l'angoscia del sindaco, che ieri anche in un'intervista a Repubblica ha detto: sì, ho paura di non staccarmi più di dosso questa immagine delle cozze pelose che ha ricevuto in dono qualche anno fa e che ora, dice, dopo 5 anni dovevo rifiutare. È vero, più che le cozze pelose pare che abbia ricevuto un acquario commestibile, tecnicamente. Così almeno lo definisce Ernesto Galli della Loggia, nell'editoriale in prima pagina del Corriere della Sera, ed è il tema che noi tratteremo dopo alle 8.30 anche con il direttore del Corriere Ferruccio De Bortoli, con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. A proposito, avete sentito, ci sono diversi giudici arrestati in questi istanti a Napoli, segno che la corruzione, la presunta corruzione, sembra mai dilagare, meno non si legge altro sui giornali che di inchieste che riguardano i partiti, che riguardano le istituzioni a tutti i livelli. E allora Ernesto Galli della Loggia, le ostriche del potere, questo è il titolo dell'editoriale di prima pagina del Corriere sul tema elite, soldi e senso della misura, e da qui ripartiamo tra un attimo dopo le informazioni sul traffico. E allora scrive Galli della Loggia nell'editoriale del Corriere le ostriche del potere. C'è qualcosa di eccessivo, di sottilmente smodato nel rapporto tra la classe dirigente italiana e la dimensione del denaro e del lusso che il denaro consente. Una sorta di incontinenza, di esibizionismo senza freno, di compulsività acquisitiva. Sembra che in questo paese per banchieri e imprenditori, per alti burocrati, professionisti di grido e parlamentari, per chi insomma conta qualcosa, ogni retribuzione non sia mai abbastanza elevata, ogni privilegio, ogni prelibatezza non siano mai troppo esclusivi, ogni manifestazione di ricchezza mai troppo smaccata. La classe politica fornisce gli esempi se non più clamorosi, senz'altro più noti. Intercettazioni, cronache giornalistiche, atti giudiziari restituiscono l'immagine di un gruppo di persone spesso proprietari di ville su remote spiagge oceaniche o di case con viste strepitose sui più bei centri storici della penisola. Al senatore Lusi capitava di ordinare al ristorante piatti di spaghetti con non so che cosa, del costo di 180 euro. Viene da chiedersi, era sempre solo? E ai suoi ospiti sembrava ovvio andare in un posto del genere? Evidentemente sì, e certamente appariva ovvio al sindaco di Bari, Emiliano, ricevere come regalo un intero acquario commestibile. Ogni anno, con le scuse più inverosimili, decine di delegazioni di consiglieri comunali e regionali, quelli della Sicilia in testa di regola, si regalano a spese dei contribuenti viaggi in prima classe nelle mete più lontane, negli alberghi più costosi. Insomma, e così via. Cioè Ernesto Galli della Loggia dice c'è un rapporto davvero smodato ormai tra le classi dirigenti, le elite del paese, quelli che più contano il denaro, più ne hanno e più ne vogliono. Questo almeno si percepisce dalle inchieste anche che coinvolgono i partiti politici. Oggi l'Unità fa due pagine, 16 e 17, che sono un po' anche il tema della nostra trasmissione. Cresce il non voto, l'elettore è in apnea tra sfiducia e crisi. Viene stimato dal 22% che era il non voto nel 2008 al 46% oggi. Addirittura lo scorsi giorni sul Fatto Quotidiano si diceva che 96 elettori su 100, 96, non saprebbero chi votare oggi. Sicuramente quella è un po' esagerata, mi sembra, però è possibile che sia il non voto in 4 anni aumentato al 46%, cioè quasi un cittadino italiano su 2 che è disorientato di fronte a quello che legge, quello che vede, e che quindi non saprebbe che cosa votare, dovesse votare oggi. Ne parliamo alle 8.30, ripeto, i partiti in crisi. Avremo ospite il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Per esempio, ieri avete visto Lucia Annunziata? Io no, però ho sentito degli stralci della telerissa, così è definita, con Rutelli. Rutelli furioso in diretta TV, su tutti i giornali. Quando alla terza domanda sui soldi di Lusi, Rutelli continua a dire: io non ho preso un centesimo, ho chiarito, mi faccio anche dire, mo basta, mo non rompete le palle. Alla terza domanda e all'insistenza dell'Annunziata, Rutelli ha detto: basta, continua a dire che ricevo i soldi, io li ho dati, lei insiste, ho querelato Lusi, vuole che quereli anche lei? E poi ne ho parlato per 2 ore e mezza, e a che l'Annunziata, anche se spazientita, dicendo: guardi, ne ha parlato in conferenza stampa, ma qui siamo in una trasmissione, non mi tratti come una deficiente, che già Sabina Guzzanti lo fa abbastanza e sono abituata. Insomma, vabbè, diciamo due personalità molto forti. Lucia Annunziata certo non si fa mettere sotto, e ha reagito così a Rutelli. Che Che dire, trovate, siamo alle segnalazioni rapide perché il tempo è sempre meno. E allora, le segnalazioni che devo fare sono sul fisco, trovate tutti i dettagli oggi sull'edizione del lunedì del Sole 24 Ore, che apre con il titolo "Il fisco si adegua alla crisi", e tra l'altro trovate i dettagli a pagina 3 di sconti anticrisi più selettivi, e soprattutto il tema delle agevolazioni. Con a rischio 90 miliardi, questo lo trovate a pagina 5 del Sole 24 Ore ed è l'allarme che viene lanciato oggi. Mentre la cronaca è quasi tutta declinata al tema dell'India, perché molti giornali aprono sul rapimento di questi due turisti italiani. Il Giornale è molto duro dicendo, però secondo me non ha tutti i torti, fermate i turisti, fai da te. Due turisti, Paolo Bosusco, 54 anni, stregato dall'India da più di 20 anni, Claudio Colangelo, 61 anni, molto apprezzato dagli amici della sua ONG, volontario viaggiatore dalla parte dei deboli, definito dalla stampa, mentre guida turistica che ama la solitudine, Paolo Bosusco. Sta di fatto che sono andati in uno stato indiano dove tutti, compresi il sito della Farnesina, del ministro degli esteri, consigliano a caratteri cubitali: non andate, perché è uno stato dove ci sono i guerrieri maoisti che fanno appunto questi rapimenti. Infatti il Giornale polemico scrive: l'ultima folle impresa dei turisti a caccia di guai. C'è anche un editoriale di Paolo Granzotto che dice: va bene, speriamo che tornino a casa, ma certo poi non accogliamoli da eroi se finisce tutto bene come speriamo. C'è il Corriere della Sera che racconta come ora si complichi la situazione dei Marò. A pagina 3: così si complica la partita diplomatica per i Marò, che sono detenuti in India, anzi stamattina è stato deciso di tenerli, di prolungare per altri 15 giorni la loro detenzione. Perché? Perché insomma il timore adesso della diplomazia italiana è che gli indiani non siano più disponibili ad ascoltare le nostre richieste su quella vicenda, dopo essere stati costretti a cedere ad alcune condizioni poste dai sequestratori. Cioè è chiaro che non c'è assolutamente alcun legame tra il rapimento dei due turisti in questo stato indiano rispetto alla situazione dei Marò. Però certo la situazione è che ci sono due stati che devono trattare, e allora il timore è che a questo punto gli indiani possono vantare un credito con noi, perché devono spendersi per cercare di liberare questi due turisti italiani. Tra l'altro il governo di Nuova Delhi è in totale conflitto reciproco con questi guerrieri maoisti, quindi il governo di Nuova Delhi dovrà spingersi per liberare questi due italiani e quindi potrà vantare un credito con noi sul fronte dei Marò. Questa almeno è l'analisi di Fiorenza Sarzanini a pagina 3 del Corriere della Sera. Insomma, una situazione complicata. C'è solo spazio per il titolo della Gazzetta dello Sport? Giusto per concludere, cari interisti, sappiate che il titolo è questo: Moratti non ne può più. Ieri se n'è pure andato via prima dallo stadio. E Roberto Scaltritti ride sornione. Che c'è da ridere? Che c'è da ridere? Vabbè. È milanista, questo morbo che a Radio 24 si espande. Vabbè, il giornale radio. 24 mattino. Eccoci qua, ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8 e 22 minuti. Allora, è una settimana importante per la politica, voglio salutare, ne discutiamo con l'onorevole Giorgia Meloni del Popolo della Libertà. Buongiorno onorevole. Buongiorno a voi. Senta, intanto di riforma del mercato del lavoro si discute molto. Le piace il metodo del ministro Fornero che dice si discuta, però non è che possiamo discutere all'infinito? Ma guardi, sicuramente è uno dei mandati che questo governo ha, è quello di portare a casa alcune importanti riforme che riguardano particolarmente le questioni e i temi economici, e ovviamente ci si aspetta dal governo che sia molto concreto da questo punto di vista. Poi io penso anche che, proprio perché questo governo in realtà è un governo tecnico, quindi non è un governo che ha un mandato degli italiani diretto, diciamo, e che non passi per il Parlamento, ma che passi per un'elezione, è importante anche riuscire ad avere, a costruire dialogo il governo lo sta facendo, c'è da dire, perché insomma sappiamo che si sta lavorando con tavoli continui. Io più che altro direi che vale la pena di ascoltare un po' tutti, insomma, in questo anche l'attenzione che si deve dare alle piccole e medie imprese, agli artigiani, ai commercianti e non solamente ai sindacati confederali e Confindustria, che sono insomma gli storici appartenenti a questi tavoli. È importante il dialogo. A un certo punto però chiaramente dovrà arrivare la sintesi. Io un'impressione che ho, se posso dire la mia, è che alla fine il governo lavori per scontentare tutti, paradossalmente, cioè per mantenere il più possibile una equidistanza tra i vari soggetti con i quali dialoga, perché nessuno possa dire di aver vinto sull'altro. Ma molti spesso lo dice, cioè ognuno deve cedere qualcosa, perché altrimenti... E questo è vero, però insomma può essere pericoloso farlo tatticamente, diciamo così, no? Nel senso che si rischia poi ovviamente di fare una cosa più limitata di quella che si potrebbe fare, insomma, ecco, vediamo. Senta, invece il dibattito sull'articolo 18, secondo lei è rivestito di troppa ideologia? Cioè, in fondo poi non è che si parla solo, anzi, e non solo proprio dell'articolo 18, però sembra che la discussione sverta soprattutto su quello. Sì, guardi, io credo che la questione sia una questione molto ideologica e, se posso dire, abbastanza diffusa, nel senso che io, che faccio parte di quella generazione che più o meno l'articolo 18 non l'ha conosciuto, nel senso che poi noi parliamo di tutela del posto di lavoro, di una tutela del posto di lavoro che riguarda il 30% dei lavoratori in Italia e dalla quale di solito sono esclusi i nuovi lavoratori, cioè particolarmente i giovani, e non ci poniamo il problema di aver costruito un'Italia nella quale ci sono due velocità e lavoratori di serie A e lavoratori di serie B, persone che sono garantite e persone che le garanzie non le hanno conosciute. È un approccio abbastanza laico sulla questione dell'articolo 18, e dico che trovo francamente molto molto ideologico sia l'approccio di chi dice che, appunto, tutelando l'articolo 18 nella sua attuale formulazione noi stiamo garantendo i lavoratori, perché ne garantiamo il 30%, sia chi dice che noi, abolendo l'articolo 18 o modificando l'articolo 18 in una certa maniera, risolviamo il problema del lavoro in Italia, perché non è vero neanche questo. Laicamente dico che noi dobbiamo mettere sul piatto della bilancia quello che l'articolo 18 così formulato tutela, e ricordarci che in Italia il 95% delle imprese ha meno di 10 dipendenti e quindi non sono tutelate dall'articolo 18, ricordarci di questo 30%, e confrontare questo dato con il limite agli investimenti che eventualmente l'articolo 18 può portare per tutti, quindi anche per quelli che non sono tutelati dall'articolo 18. Questo che significa? Io non sono per l'abolizione dell'articolo 18, dico la verità, sono per una sua riformulazione che sia il più possibile, diciamo così, che metta sul piatto di questa bilancia, che renda la cosa un po' migliore. Sì, nel diciamo senso. Tutela e flessibilità, cioè più tutela ma flessibilità. Però una cosa secondo me va detta. Primo, il tema è che i diritti devono valere per tutti. Cioè, io non sono d'accordo con chi dice che eventualmente le modifiche che noi introduciamo nel mondo del lavoro devono valere per i nuovi assunti. Perché questo crea una discriminazione in Italia che non è più tollerabile. Noi non possiamo avere generazioni diverse che hanno diritti diversi. Io credo che qualunque sia la riforma che noi introduciamo, la dobbiamo introdurre per tutti. Primo. Secondo, scusi, dico questa cosa molto velocemente, sono un po' spaventata da questa sintesi che sta trovando il governo, per la quale nel licenziamento discriminatorio sarebbe il giudice a decidere tra il reintegro obbligatorio e l'indennizzo, perché noi sappiamo che la gran parte del problema dell'articolo 18 è nella lunghezza dei processi. Quindi non le piace questa discrezione del giudice. Trovo che potrebbe paradossalmente complicare, cioè sarei d'accordo sul principio, ma attenzione alla sua applicabilità, perché noi rischiamo di complicare la vicenda. Senta, invece, con la Camusso lei si è molto arrabbiata la settimana scorsa perché ha fatto un'intervista. La Camusso ha definito oggettine a disposizione del potere maschile, cioè chi? I ministri o le ministre del governo precedente, tra cui anche lei, quindi certo. Si è molto arrabbiata, ha detto chieda scusa, non l'ha fatto, non l'ha fatto, perché noi abbiamo un'Italia nella quale la solidarietà femminile funziona se le femmine delle quali si discute hanno la tua stessa, votano quello che voti tu e hanno le tue stesse idee. Io invece, che sono persona che è stata abituata a rispettare le donne perché so che cosa vuol dire misurarsi ad alti livelli livelli quando si viene sempre considerati inadeguati e quindi dover sempre dimostrare il doppio, ho sempre diciamo dispensato la mia solidarietà a 360 gradi, ma evidentemente certo femminismo in Italia vale solamente per chi la pensa alla stessa maniera di chi si dichiara femminista. Però per concludere, lei lo sa che se ci dovesse essere una quadra, come si suol dire, sulla riforma del mercato del lavoro, c'è il rischio che gli italiani vogliano fare alcuni almeno Monti Santo e per i partiti politici è notte pesta a un anno dal voto, o no? Ma guardi, per i partiti politici è già un momento molto difficile e la gran parte delle colpe ce l'hanno i partiti politici e ce l'ha la classe politica. Su questo vale la pena di dire che noi non dobbiamo però fare l'errore di non distinguere la classe politica dalla politica, perché io vedo un'antipolitica diffusa sulla politica, ma la politica rimane la più bella forma di impegno civile che esista, mi spaventa molto questa negazione della politica e della democrazia conseguentemente, e i partiti devono avere il coraggio di rifondare la politica, vuol dire cambiare la legge elettorale, e se non si trova l'accordo, io insisto, per fare chissà quale legge elettorale che metta tutti d'accordo, si prende e si modifica l'attuale legge elettorale cambiando le due cose che non funzionano, cioè introducendo le preferenze e cambiando il premio di maggioranza al Senato. Questo si fa in un pomeriggio se si vuole fare, sì. E io credo che noi non ci si possa in nessun caso ripresentare alle prossime elezioni con le liste bloccate, perché sarebbe la nostra fine. Dopodiché credo che vada fatto un ragionamento più ampio che riguarda per esempio il finanziamento pubblico ai partiti. Io non sono contro il finanziamento pubblico ai partiti, perché se noi togliamo il finanziamento pubblico ai partiti altro non facciamo che favorire tutte le forme illegittime di finanziamento dei partiti, oppure favorire un sistema nel quale possano fare politica solo Montezemolo e Berlusconi. Invece io sogno un'Italia nella quale tutti possano fare politica, però il finanziamento pubblico deve essere legato a regole certe, sì, dei partiti, quindi anche a una riforma dei partiti che sia in grado di dare garanzie su come questi soldi vengono spesi, sulla partecipazione, esattamente, sulla partecipazione, sul diritto degli italiani a scegliere i candidati a tutti i livelli, l'introduzione delle primarie per legge, eccetera, eccetera. Se noi non facciamo questo, chiaramente la cosa peggiorerà. E tra un anno sì. Intanto la ringrazio, l'onorevole Giorgia Meloni del Popolo della Libertà, ex ministra della Gioventù ovviamente, e ci fermiamo per la pubblicità e meteo, e poi proprio di credibilità al minimo storico pare dei partiti ne parliamo con il direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, tra poco. 24 mattino. Eccoci qua allora alle 8:36, secondo alcuni sondaggi il gradimento dei partiti nell'opinione pubblica è a livelli bassissimi, a livelli del 92 dopo Tangentopoli. D'altronde sui giornali basta leggere, è un profluvio di inchieste, ipotesi di corruzione che coinvolgono vari partiti politici, non risparmiano nessuno, dal centrodestra al centrosinistra. E tra un anno si vota al Parlamento e tra poco si vota alle amministrative. Allora davvero il livello del gradimento dei partiti e la solitudine dei partiti è così manifesta? Ne vogliamo discutere con il direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, che saluto. Buongiorno direttore, benvenuto. Buongiorno a tutti. E saluto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei e ascoltatore. Uno dei sindaci che tra l'altro è stato eletto al grido anche di quel famoso scassiamo i partiti, o uno di quei sindaci che dice la vera politica si fa fuori dai partiti. Direttore De Bortoli, dobbiamo stupirci del fatto che i partiti non siano proprio ai minimi storici? Questo è abbastanza accertato non solo nell'opinione pubblica ma anche da sondaggi, da numeri veri e propri. Sono venute meno alcune scuole di partito, insomma, quindi è venuta meno diciamo anche una capacità di selezionare i gruppi dirigenti dei partiti. E poi bisogna dire che abbiamo assistito negli ultimi tempi a un'eccessiva personalizzazione della politica e anche ad una crescita esponenziale del costo della politica. Perché quello che è successo in molti partiti ha visto un po' venire meno questa disciplina e questa cultura che era propria dei partiti ideologici, con tutti i loro difetti ovviamente, ma anche con qualche pregio del Novecento, e poi un'eccessiva personalizzazione che ha avuto bisogno di essere finanziata sempre di più. E poi bisogna anche constatare, ma questo è un problema che non riguarda soltanto la politica, un abbassamento di tensione morale. Alcune cose che prima non si facevano adesso si fanno e persino si ostenta il fatto che le si facciano. Oggi infatti sul suo giornale c'è l'editoriale di Ernesto Galli della Loggia dal titolo Le ostriche del potere, cioè la tesi della Loggia è che la classe dirigente a tutti i livelli ha una ostentata voglia di mostrare il potere, come se i soldi non bastassero mai, come se il potere non bastasse mai. È a questo che la gente comune reagisce, secondo lei? Io credo di sì, insomma, si è visto in questi anni una serie di comportamenti in tutti i partiti, anche se generalizzare è sbagliato naturalmente, insomma, in cui a un certo momento non c'è stato nemmeno più questo pudore, non c'è stato più nemmeno il rispetto di regole anche non scritte, e la politica è stata qualche volta il mezzo attraverso il quale ci sono stati degli arricchimenti personali oppure delle crescite nella scala sociale da parte di alcuni gruppi. Da questo punto di vista vorrei capire dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che vuol dire quando lei dice la vera politica è fuori dai partiti? Cioè non c'è il rischio di fare anche un po' del populismo, sindaco, su questo? Ma chiariamo, i partiti, se leggiamo la Costituzione, hanno avuto e dovrebbero e dovranno avere nuovamente nel futuro una funzione fondamentale, secondo me soprattutto quella di trasformare la società, io dico in senso costituzionalmente orientato. La mia è un'analisi dell'attuale, cioè oggi la politica, quella che piace di più ai 2/3 della popolazione, è quella che si vede fuori dai partiti. Penso alle manifestazioni per il diritto al lavoro che hanno fatto gli operai in questi mesi, penso alle donne contro la mercificazione del corpo che Berlusconi portava avanti, penso agli studenti, ai precari. Questa è politica, è la richiesta di cambiamento. Qualcuno la chiama antipolitica, spesso proprio dai palazzi, ma è diverso. Adesso bisogna vedere come organizzare questa voglia di cambiamento. I partiti da soli, io faccio politica solo da 2 anni, ma ho la convinzione che i partiti da soli al proprio interno, senza una forte pressione dall'esterno, penso soprattutto appunto dalla pressione popolare, non cambieranno da soli. Qualcosa sta cambiando, per esempio la legge sull'elezione diretta dei sindaci, io credo che è una buona legge perché avvicina i rappresentanti ai rappresentati. Avere i nominati in Parlamento non aiuta. Poi se posso dire una cosa sul costo della politica, il direttore ha fatto un'analisi che condivido, vorrei però solamente fare una precisazione sui costi della politica. Anche qui più che costi della politica, molto spesso sono interessi privati dei singoli che fanno politica. Io l'ho visto anche nella campagna elettorale che ho fatto da sindaco, ero sostenuto in realtà da pochissimi partiti, eppure siamo riusciti a far passare un messaggio di cambiamento. Anche qui la questione morale secondo me deve cominciare proprio dal fatto che si può fare politica senza dover avere dietro potentati economico-finanziari, apparati di finanziamenti dei partiti o le mafie, perché poi il rischio diventa quello. Se passa il messaggio che la politica la puoi fare solo con i soldi, poi il rischio che la stragrande maggioranza dei cittadini si allontanano dalla politica. Sì, ma che, io vorrei capire concretamente tra un anno che succede. Cioè, De Bortoli, qualcuno ha tirato in ballo, per esempio, giusto per fare un nome, Roberto Saviano, a dire ci vuole che la società civile si deve mobilitare, bisogna creare nuove liste, nuovi movimenti. È un qualcosa che bisogna guardare con interesse, che lei guarda con interesse, è una cosa che si guarda con un po' di scetticismo? Assolutamente no. Con grande interesse. Intanto bisogna riscoprire la funzione costituzionale dei partiti, cioè è importante, i partiti sono mediazioni di interesse e portatori di valori, dobbiamo non scendere nell'antipolitica tout court, i partiti sono necessari per il funzionamento di una democrazia, è necessario un coinvolgimento della società civile. Io per esempio credo che le primarie così dibattute, ne sa qualcosa ovviamente anche il sindaco, siano state una forma di partecipazione estremamente importante, sono cresciute nuove figure, forse figure che erano al di là della volontà dei singoli partiti, insomma, però io credo che questo ricorso alle primarie abbia coinvolto la cittadinanza, abbia espresso nuove domande di politica, anche nuove figure, insomma, che in qualche modo possono, senza avere grandi problemi di finanziamento della propria presenza pubblica, proporsi e dare un'idea di coinvolgimento della cittadinanza nella risoluzione dei problemi più vicini, che sono quelli naturalmente di gestione delle città, ma anche quelli più complessivi. Allora io trovo che sia importante un rinnovamento della classe politica e anche un'idea che possano nascere nuovi partiti, e da questo punto di vista stiamo vivendo una situazione per certi versi eccezionale, che potrebbe essere favorevole, persino una nuova fase costituente, se vogliamo vederla con altre, con un'altra angolazione, perché comunque da qui al 2013 si dovrà ricomporre un quadro politico ed è possibile che nascano nuovi raggruppamenti, nuove proposte e anche un nuovo interesse da parte dei cittadini, perché non dobbiamo dimenticare che il nostro è il paese nel quale la politica interessa, la gente va a votare. Questo però non è più facile a livello appunto di amministrative, come il caso, non so, Pisa Pia Milano, il caso dei Magistris a Napoli, il caso Zedda Cagliari, piuttosto che a livello nazionale, direttore? Beh certo, diciamo, la legge dei sindaci, io sono d'accordo con De Magistris, è stata ed è una buona legge, sicuramente. Forse io sul limite dei due mandati avrei qualcosa da dire, insomma, però credo che con una nuova legge, e qui c'è la responsabilità delle forze politiche attuali, cioè quella di cambiare una legge che avvicini il cittadino, che renda il cittadino partecipe della propria scelta. Oggi è sostanzialmente ingannato, perché le decisioni vengono prese dall'alto ed è difficile però che le segreterie dei partiti possano rinunciare a questo potere di poter nominare in qualche modo i possibili eletti. Allora, con un cambiamento della legge, con delle riforme costituzionali che si potrebbero benissimo fare in questi mesi che mancano l'appuntamento elettorale del 2013, io credo che potrebbe esserci un rinascimento della politica, perché la gente vuole partecipare, vuole essere protagonista del proprio tempo. Dopo le informazioni sul traffico ripartiamo dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, un paio di domande sia su Monti, che per molti è potrebbe essere la vera novità della politica, per esempio al sindaco di Napoli non piace granché, tra poco. Allora, tra un anno si vota e la solitudine dei partiti è manifesta, nel senso del livello di gradimento da parte della popolazione. Ne stiamo discutendo con il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Sindaco, al quale chiedo, senta sindaco, cosa c'è di meglio della novità di Monti? Un tecnico che la gente apprezza, che si può permettere di fare le cose che i politici non possono fare, però a lei non piace, per esempio. Perché? Non è questione che non piace, io sono stato in Europa e posso dire che il Presidente del Consiglio è uno degli italiani in questo momento più stimati a livello internazionale, e allora? Ha ridato credibilità importante nel mondo. Non mi piace come soluzione al problema. Il presidente Napolitano ha fatto bene a scegliere Monti, ma il governo Monti non è un governo tecnico, è un governo con un'ampia maggioranza politica, PD, PDL, Terzo Polo. È un governo comunque rappresentativo di poteri forti, anche economico-finanziari. Io credo che invece ci sia bisogno di costruire un'alternativa che dia voce soprattutto ai due terzi della popolazione del nostro paese, che in questi anni sono stati ai limiti di un processo politico. Penso alle fasce sociali deboli, penso ai ceti medi, penso agli studenti, ai giovani, agli operai. Queste sono persone che dal governo Monti finora non hanno avuto nessun beneficio. Penso agli enti locali, ai tagli che abbiamo subito e che poi vanno a ricaduta sulle politiche sociali e sulle politiche del territorio. Io credo che il governo Monti stia cercando di risanare da un punto di vista finanziario il paese, ma non diminuisce in alcun modo la divaricazione tra i poteri forti che lo sostengono e di cui lui in qualche modo è rappresentante e la stragrande maggioranza della popolazione. Ma dica un po', ma lei si vuole candidare, De Magistris, l'anno prossimo? Guardi, io sto facendo un lavoro che mi entusiasma moltissimo ed è difficilissimo, che fa il sindaco di Napoli, che è la città che amo, è una città più difficile da governare, e voglio fare il sindaco sicuro per 5 anni. Poi vorrei cercare di vincere una sfida, cioè quello di cercare di cambiare le cose governando, cioè facendo il sindaco, dando le risposte alle persone, cercando di ridurre le distanze di quello di cui stiamo parlando adesso, tra appunto la sfiducia nella politica e invece il fatto che si può fare politica con le mani. Ho capito, ma lei dice ci vuole, voglio dire, bisogna dare voce a queste persone, le persone che non hanno voce, eccetera. Come si fa? Cioè da sindaco di Napoli? Allora, no, come da sindaco di Napoli? No, glielo dico, da sindaco di Napoli innanzitutto portando anche l'esperienza che stiamo realizzando a Napoli, cioè quella appunto di poter governare senza avere l'occupazione partitocratica, con un nuovo modo di coinvolgere i cittadini, con la democrazia partecipativa che noi abbiamo allargato, consultando direttamente i cittadini e anche magari parlando dell'esperienza napoletana in Italia. Poi sono anche io d'accordo, lo vado dicendo, ho ascoltato con molto interesse prima il direttore, io credo che ci sia bisogno di qualcosa di nuovo per le elezioni del 2013, nel senso che credo che una formazione civica significativa possa rappresentare secondo me un'alternativa importante. Ma secondo lei deve rispondere a chi? Deve rispondere a chi? Voglio dire, ci devono essere poi delle facce, delle persone che questa... Non c'è dubbio, la grande sfida è quella di formare una classe dirigente nuova, forte, vivace, con grande cura e passione, che abbia nella questione morale il suo DNA. Io sono d'accordo che non si può affidare a una persona, altrimenti corriamo il rischio del personalismo e del liderismo. Ci sono delle persone, secondo me, che possono rappresentare questo momento. Però per esempio, Saviano è una di queste? Guardi, ma lei nel farmi questa domanda cade nell'errore che noi vogliamo evitare. Non per personalizzare, cioè non è che... Posso dire la verità, penso che Saviano sia una persona che possa dare un segnale forte alla voglia di cambiamento e credo che sia una risorsa per partecipare alla vita pubblica. Che si affidi a Saviano una funzione politica, io credo che si carica questo ragazzo di una serie di responsabilità che lui non riuscirebbe, ma no, mi ritengo francamente. No, ma certo, anche invece credo che sia importante, invece, per esempio, io lo vedo anche nelle riunioni che facciamo all'ANCI dei comuni, credo che per esempio molti sindaci, ma anche di orientamenti un po' diversi, possono dare secondo me un messaggio. Vede che un po' si vuole candidare. Ma l'ha detto, starà 5 anni a Napoli. Poi vedremo, manca un anno. Le chiedo questo però, sindaco, glielo devo chiedere perché la cronaca lo impone. Questa mattina ci sono stati e ci sono in corso 18 arresti, no, diversi arresti, tra cui 18 giudici tributari a Napoli, una vicenda che coinvolgerebbe anche la Camorra, perché insomma, sono le notizie che arrivano, non so, sarà arrivata anche a lei questa notizia da sindaco di Napoli. Che dobbiamo pensare, che deve pensare il cittadino quando vede questi arresti? Guarda, firmo restando che le notizie adesso prende, le commentiamo, sono di stamattina. Sì. Il tema che io ho sempre ritenuto vero, qui noi parliamo sempre solo di politica e di questione morale in politica, ma io quello che ho visto anche in 15 anni di magistratura, che c'è una questione morale grande quanto una casa, anche in pezzi delle istituzioni importanti. Penso alla magistratura, penso a pezzi delle forze dell'ordine, ovviamente sempre piccoli settori che però possono influenzare alla fine anche la vita pubblica. Oggi il tema vero è questo, alla luce anche di 20 anni di Mani Pulite e 20 anni di stragi di mafia, che le corruzioni si sono più raffinate, le mafie si sono maggiormente istituzionalizzate, allora questo è il vero cancro che mi preoccupa, non è solo una questione di politica, magari fosse un problema solo di classe dirigente in politica, il tema è molto più vasto e molto più preoccupante. Ecco perché c'è bisogno di coinvolgere i cittadini, perché altrimenti noi da questa situazione, da questo pantano non ne usciamo. L'ultima domanda vorrei fare al direttore De Bortoli, l'idea che Monti o che pezzi del governo di Monti, membri del governo Monti, possano continuare l'avventura politica è un'idea di fantapolitica oppure no nel 2013? No, credo che qualche membro dell'esecutivo Monti ci pensi ed è legittimo che ci pensi. E poi quando saremo vicini alle elezioni sarà necessario capire un po' come cambierà il quadro politico, se ci saranno delle nuove formazioni. Io spero naturalmente che ci siano nuove formazioni in grado di cambiare anche il quadro dell'offerta e soprattutto di rispondere a quelle che sono le esigenze di tutti i cittadini, ma anche quelle che sono le esigenze di un paese che deve riconquistare il proprio ruolo in Europa. Io allora ringrazio qui il direttore del Corriere della Sera Ferruccio De Bortoli, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris per essere stati con noi. Seguiteci su Twitter @AlinoMilan, questo è il mio account, @24mattino invece quello della trasmissione, e l'appuntamento lo rinnoviamo a domani alle 7:20.